Penso che la cosa interessante di questa inchiesta sia che mette in luce delle questioni che di fatto, come dire, un po' tutti nel senso comune avevamo immaginato, però qui abbiamo anche dei dati a sostegno e da questi possiamo partire per cambiare le cose, perché poi quello che ci dice questa inchiesta è che comunque Bologna è una città che nel suo benessere non è un benessere distribuito in maniera equa e quindi dobbiamo provare a scardinare delle dinamiche sia per le classi, diciamo così, per le persone più emarginate, che sono quelle che noi conosciamo bene, ma in realtà l'emarginazione rischia di allargarsi ancora di più a quelle fasce che poi noi abbiamo, diciamo, l'inchiesta ha inserito nello strato basso, ma che comprende persone che hanno un reddito, che lavorano, che hanno una casa in affitto con difficoltà e quindi comunque, diciamo, anche persone come noi, ecco. Voi avete diversi progetti di Housing First in cui fate sostanzialmente da garante per il pagamento dell'affitto. State incontrando problemi? Stiamo incontrando problemi già da diverso tempo, perché ovviamente, come sappiamo tutti, i canoni di affitto sono schizzati alle stelle e quindi trovare casa è difficile e quando si trova ha dei costi molto elevati e quindi sostenerli attraverso comunque il finanziamento dei progetti comincia a diventare molto difficile e a volte troviamo dei proprietari di casa un po' più sensibili, ma chiaramente siamo dentro, come dire, una logica di mercato, affittiamo da privati e quindi troviamo quello che c'è sul mercato, per cui sarebbe bello che invece ci fosse anche da questo punto di vista una sensibilizzazione dei proprietari che mettono a disposizione degli immobili, non dico gratuitamente, ma magari a costi più accessibili, ecco, per questo tipo di progetti e non solo. Servirebbe comunque anche un'azione del pubblico su questo? Sì, immagino che con l'Agenzia per l'Abitare questa cosa si smuova un po', chiaramente anche la messa a disposizione di immobili di patrimonio pubblico per questo tipo di progetti, che avviene adesso solo in piccola parte, aiuterebbe.